179. Frittelle di riso secondo. Queste sono più semplici delle descritte al numero precedente e riescono anch'esse buone e leggere. Cuocete molto, o meglio moltissimo, in mezzo litro circa di latte, grammi 100 di riso, dandogli sapore e grazia, con burro quanto una noce, poco sale, un cucchiaino scarso di zucchero e l'odore della scorza di limone. Ghiaccio che sia, aggiungete una cucchiaiata di rum, 3 rossi d'uovo e grammi 50 di farina. Mescolate bene e lasciate riposare il composto per diverse ore. Allorché sarete per friggerlo, montate le chiare quanto più potete, aggiungetele mescolando ad agio e gettatelo in padella a cucchiaiate. Spolverizzate al solito di zucchero a velo e servitele calde. 180. Frittelle di semolino. Latte mezzo litro, semolino grammi 130, burro quanto una noce, rum una cucchiaiata, odore di scorza di limone, sale quanto basta, uova numero 3. Cuocete il semolino nel latte, salatelo quando è cotto e ghiaccio che sia, aggiungete le uova e il rum. Friggetele nell'olio o nel lardo e mandatele in tavola spolverizzate di zucchero a velo. Questa quantità può bastare per 4 o 5 persone.